America 24 di Mario Platero. Senate lawmakers have voted to approve a sweeping overhaul of how the government regulates banks and Wall Street. Benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, la riforma finanziaria in America, la più importante dagli anni 30, è ormai cosa fatta. Ieri notte i senatori, con una forte maggioranza, forse poteva anche essere in attesa, ma c'è stata davvero una forte maggioranza bipartitica, hanno approvato il pacchetto di riforme che cambierà il volto del settore bancario americano e forse mondiale. Ora tocca al presidente Obama facilitare il processo di riconciliazione con il progetto già approvato dalla Camera, un compito che non sarà necessariamente facile, visto che ci sono ovviamente alcune differenze di fondo, ciascuno così si irrigidirà sulle sue posizioni. Però a questo punto devo dire l'esito finale è chiaro, il compromesso si farà, è inevitabile, si è riuscito a farlo sul progetto di riforma sanitaria. Il presidente Obama, proprio come nel caso della riforma sanitaria, tornerà ad essere il grande mediatore compromesso e così potrà firmare un'altra legge storica che servirà da punto di riferimento, fra l'altro, per il resto del mondo, certamente per il gruppo dei 20 che alla fine di giugno si riunirà ai margini del G8 canadese e discuterà un approccio comune per rendere più trasparente e sicuro, perché poi è questo l'obiettivo centrale, il modus operandi delle grandi istituzioni finanziarie mondiali. You can find the Republicans are having difficulty determining how they're going to continue making love to Wall Street. C'è da chiedersi a questo punto quanto il progetto già ammorbidito in buona parte al Senato finirà per essere corretto ulteriormente dalla procedura di compromesso e ovviamente c'è da chiedersi se poi sarà sufficiente per raggiungere gli obiettivi che tutti si proponevano. La risposta ovviamente verrà poi soltanto dal tempo. Di certo questa legge ridisegnerà per i prossimi decenni un modello competitivo nel settore che ormai include non soltanto banche commerciali ma anche le banche d'affari, hedge fund, fondi comuni, e una legge tra l'altro che secondo me ha già lasciato un po' il segno sul mercato, perché la caduta di ieri del 3,6% in borsa a New York, una caduta fortissima, a questo punto la correzione si aggira ormai attorno al 10% e dunque siamo davvero in territorio di correzione. Dicevo, questa caduta, questa preoccupazione degli investitori riflette certamente la crisi europea, le tensioni sull'euro, ma sconta in parte anche proprio questa riforma che resta in parte sconosciuta nei suoi dettagli e che potrebbe, ripeto, potrebbe limitare di molto le attività finanziarie e di conseguenza quelle produttive, per cui a Wall Street comunque un po' di preoccupazione c'è. Sappiamo quanto le banche avevano fatto pressioni di lobby contro il progetto così come lo stavano preparando al Senato. Di certo i guadagni da favola, le speculazioni selvagge, le incertezze e i rischi che hanno caratterizzato un modello di vita e di lavoro per i primi anni del nuovo secolo verranno rimessi in discussione. Ecco, veniamo alle dinamiche della svolta. Il Senato americano, così, dopo negoziati drammatici che sono andati avanti da 3 settimane e momenti di alta tensione, gli ultimi ieri, decideva appunto di chiudere il dibattito sugli emendamenti. Si apriva la porta al voto per l'intero progetto di legge, 1400 pagine firmate, messe a punto dal senatore Christopher Dodd, un grande successo per questo anziano senatore del Connecticut che tra l'altro ha già annunziato che alla fine dell'anno si ritirerà e si ritirerà dunque con l'orgoglio di aver portato a casa comunque un progetto difficile e in qualche modo rivoluzionario. Con questa legge si cercherà di chiudere i gap di regole alla radice degli scandali finanziari, si daranno maggiori poteri di intervento e di controllo alla Federal Reserve, la banca centrale americana, si creerà una nuova agenzia per la protezione dei consumatori, questa agenzia era importantissima per Barack Obama, il presidente ci teneva moltissimo, si cercherà di rendere quantomeno più trasparenti le operazioni sui derivati e poi di limitare l'esposizione al rischio speculativo delle grandi banche attraverso una combinazione che potrebbe essere di tasse e di nuove regole. il protagonista delle battute finali che hanno consentito di sbloccare l'impasse che si era creato mercoledì è stato il senatore repubblicano Scott Brown, colui che soffiò ai democratici, ricordiamolo, il seggio di Ted Kennedy in Massachusetts e che, devo dire, sta emergendo oggi come uno dei più promettenti politici dal volto nuovo in campo repubblicano, non fosse altro perché è aperto al dialogo, al compromesso e alla discussione costruttiva con gli avversari. Brown era pronto a votare a favore dell'interruzione del dibattito già mercoledì, ma voleva, e qui arriviamo ovviamente al solito mercato delle vacche che vale dappertutto, voleva Brown che due importanti istituti di Boston, la Fidelity e State Street, tra l'altro la banca che è sbarcata in Italia nei giorni scorsi, vi ho fatto ascoltare un'intervista che ho fatto con l'amministratore delegato di State Street proprio ieri, ecco, chiedeva che queste due banche fossero escluse da certe limitazioni per operazioni sul mercato per conto del loro portafoglio, invece che per conto terzi. E dunque Harry Reid, il capo della maggioranza al Senato, aveva capito che non avrebbe mai ottenuto l'adesione di due democratici contrari al progetto. Maria Cantwell, ostinatissima di Washington State, convinta che le misure contro i derivati sono troppo leggere. Russell Feingold, senatore del Wisconsin, che ritiene invece il progetto in generale poco severo e dunque non in grado di impedire una nuova crisi sistemica nei prossimi anni. E così hanno votato contro. Ma la partita a quel punto, anche per i repubblicani, che pure avevano votato in 38 contro l'interruzione del dibattito, era troppo importante per essere abbandonata a se stessa. E così altri due senatori dell'opposizione, Susan Collins, Olympia Snowe, entrambe repubblicane del Maine, si sono unite alla maggioranza democratica, consentendo così di chiudere quest'altro grande capitolo della crisi finanziaria del 2007-2009 su una nota che, auguriamocelo, possa essere improntata verso il bipartitismo. È un po' che non parliamo di spettacolo, vi do una notizia che riguarda Law and Order, Legge e Ordine, un spettacolo televisivo con storie di avvocati criminali che la NBC trasmette da 20 anni. Ebbene, l'ultima puntata andrà in onda il 25 maggio, martedì. Law and Order non esisterà più, l'America in qualche modo è triste perché si era affezionata a questo programma che peraltro continuava a fare soldi e quindi erano in molti a sperare che questo spettacolo potesse continuare e battere il record, tra l'altro, dello spettacolo televisivo più longevo che appartiene a Gunsmoke, che va in onda addirittura dal 1930, uno spettacolo che è cominciato alla radio, poi proseguito alla televisione. Perché si è deciso di chiudere? Beh, intanto perché la NBC vuole chiudere con orgoglio, vuole chiudere nel momento in cui il programma è ancora al suo massimo di indice di gradimento e al top. Due, perché era diventato troppo scontato, alla fine c'erano delle storie ripetitive, diventava prevedibile, rischiava di diventare noioso. Infine la NBC vuole aggiornarsi, non vuole rimanere ancorata al passato, vuole fare dei passi in avanti e poi ha già fatto storia della televisione, dunque non c'era bisogno di stabilire dei nuovi record. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, Tom Waits, cantautore californiano, voce graffiante inconfondibile. La sua musica, ha detto il direttore musicale di un nuovo show, Riccardo III di Shakespeare, in persona perfettamente il carattere di Richard. E dunque dedichiamo a lui, a Tom Waits, la canzone di oggi, Old Shoes. I'm singing the song, since time it was sung. I've been putting it off for a while, but it's hard to buy now. Da New York è tutto, Mario Platero vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!